Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento in diretta il sabato con l'altra cronaca. Oggi Alessio Maurizi in versione un po' febbricitante, ma va bene così. Cominciamo tra poco, subito, e restiamo in clima da campagna elettorale, perché ormai manca una settimana e vogliamo anche noi restare in questo clima di campagna elettorale, però non già ospitando i candidati come si fa negli spazi autorizzati, quanto invece dando spazio alle vostre libere opinioni, alle vostre notizie, alle vostre richieste, soprattutto ai candidati della campagna elettorale. La scorsa settimana abbiamo fatto lo sfogatoio dei pendolari all'800 24 00 24, ne sono venute fuori delle belle. Questa volta cambieremo argomento, ma il tema è sempre quello. Tutto quello che avreste voluto vedere o sapere da questa campagna elettorale che non avete invece visto e sentito. 800 24 00 24. Tra l'altro, forse una buona notizia c'è in questa campagna elettorale: un po' di austerity, un po' di crisi. Non ci sono più, sono spariti i manifesti elettorali, quelli tutti spiaccicati sulle pareti, abusive, probabilmente per risparmiare. Questa cattivissima abitudine è andata sparendo, almeno stavolta. Si parla di una campagna elettorale molto su Twitter, sui social network, e quindi meno deturpazione da questo punto di vista. Ne parleremo con degli ospiti da Roma che sono particolarmente sensibili a questa cosa qua. Poi c'è il concorso, ancora una settimana, perché poi dopo tireremo le fila. Andate sulla pagina, sull'home page del sito di Radio 24 a scegliere le storie che vi sono piaciute di più in questi primi 12 mesi di programma. Votate, voi ascoltatori che esprimete il giudizio portate a casa una vacanza sostenibile offerta da EquoTube. Invece le storie segnalate avranno la possibilità di tornare in diretta e raccontare le evoluzioni delle loro iniziative. E poi seguiteci su Facebook, si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24, perché vi comunicheremo quando ascoltare in diretta la puntata per partecipare poi alla estrazione vera e propria del premio. Che facciamo? Adesso iniziamo con qualche notizia della settimana. Questa prima segnalazione viene da Bolzano, non c'è niente da fare, sono avanti anni luce, probabilmente non li raggiungeremo mai noi, il resto d'Italia, o forse sì. Buste paga solo digitali a partire da aprile per i dipendenti della provincia di Bolzano. Pensate che solo di buste paga, di spese di spedizione e di carta, spendevano 200.000 euro. Questo accade in tutte le province, in tutte le città dove c'è l'amministrazione pubblica in Italia. E allora, quando la stessa cosa succederà anche nel resto d'Italia? Speriamo prestissimo. Quest'altra notizia invece viene da Bologna. Fa sempre un certo piacere quando scattano controlli di legalità e c'è lo stop ai furbetti. In questo caso furbetti delle case comunali hanno fatto una verifica sugli ISEE, le dichiarazioni dei redditi di cittadini che avevano usufruito delle case comunali, e hanno scoperto a Bologna una serie di irregolarità. Sono già scattati gli sfratti per quelli che abitavano nella casa dell'amministrazione pubblica senza avere titoli di reddito. Ripeto, insomma, sono piccole soddisfazioni, però ogni tanto, ecco. La prossima notizia invece viene da Brescia, di Solidarietà Un Pane per Tutti, un'associazione nuova che si impegna contro gli sprechi. Li trovate, gli animatori sono Martina Borghetti e Luca D'Andrea su Facebook. Un Pane per Tutti, potete aderire, lì vi spiegano anche come si fa, insomma, a evitare lo spreco di cibo, che viene calcolato solo a Brescia 13 tonnellate ogni giorno, potrebbero sfamare 12.000 persone, vi rendete conto? È una cosa folle. C'è anche l'obiettivo europeo per l'anno prossimo contro gli sprechi alimentari, e questa però è un'iniziativa concreta, Un Pane per Tutti a Brescia. Adesso andiamo a cominciare 800 24 00 24 tra poco con i vostri interventi in diretta. Perciò scusate se non tengo il giusto atteggiamento, scusatemi se rido e perdonatemi se piango, mi sento asato il filtro, c'ho il drenaggio guasto, qualsiasi sentimento me lo trovo scritto addosso in manifesto, e manifesto, e manifesto, e manifesto. E Il manifesto di Daniele Silvestri, qua ci interessa soprattutto nel senso stretto della parola, cioè i manifesti elettorali. L'abbiamo detto, forse ce ne sono di meno di quelli abusivi in questa campagna elettorale, forse i partiti hanno voluto risparmiare, però questa è una piaga nota e risaputa. Vogliamo fare il punto su questo e su altre iniziative che loro conducono alla grande con un gruppo di volontari contro il degrado a Roma, capitanati, credo, dal presidente del municipio 18, Daniele Giannini. Buongiorno. Salve, buongiorno. Lei è presidente del municipio 18, però vedo nelle foto che è tra gli animatori di questo gruppo che andate a ripulire, a sgrattare i graffiti, insomma ne fate di ogni. Prima di tutto vi chiedo, è vero che a questo giro c'è un po' meno di casino da questo punto di vista con i manifesti elettorali? Beh sì, diciamo, Roma è sempre stata una delle piazze su cui si sono scatenati queste affissioni. Scatenati, diciamo, mi sembra la parola giusta, sì, perché c'era una vera e propria orda selvaggia. Sì, sì. Diciamo che adesso, vedendo un po' le plance, i muri, le plance, diciamo, gli strati sono meno spessi del passato, quindi abbiamo... Cioè voi lo misurate in centimetri il degrado? Sì, cioè, sì, molti candidati sicuramente, ecco, potendo usufruire di altri mezzi, hanno preferito... giustamente questo tipo di comunicazione diversa, e quindi diciamo che sì, si sta lentamente migliorando. Io devo dire che lei diceva io sono a capo, diciamo che io sono quello che forse ha recepito meglio il messaggio di tutti questi blog, di tutte queste persone che su Roma avevano cercato sponda in chi è amministratore pubblico, no, di questa città. Quindi diciamo che il merito va sempre a queste, a chi solleva i problemi, queste minoranze che nei vari quartieri si sono cominciate a muovere da qualche anno. E poi noi nel municipio 18 abbiamo creato, diciamo, proprio un'esperienza che è quella dei Decoro Day, quella dei volontari del decoro, che purtroppo noi speravamo avesse delle imitazioni in giro, però siete rimasti gli unici, no? Poco, sì, senta, sì. Però io ho visto anche le foto, voi dica la verità, vi divertite anche un po', perché io vedo siete con questi cosi che sparano l'aria, per cioè che assorbono le foglie, e come se fossero delle pistolone giganti, siete lì in gruppo a pulire, vi fate le foto, cioè è anche un modo per passare la domenica insieme. Sì, diciamo che poi non è certo la fatica quella che ha il sopravvento, anzi la parte divertente dello stare insieme, del darsi da fare, e poi c'è anche la soddisfazione di vedere magari un giardinetto che cambia volto. Esatto, anche, può essere anche, torna fruibile. Giannini, può essere anche un invito, no, ad altri ad unirvi a voi, perché non è una cosa seriosa questa. Cioè, certo, si parte da un input importante, che è quello appunto di ripulire le strade e di renderle vivibili, marciapiedi per chi passa, eccetera. Però poi si può fare anche con questo spirito, come lo fate voi, insomma, è questo che volevo dire. Non che andate lì a divertirvi, che lo fate divertendovi. No, diventa una cosa anche, diciamo, simpatica da fare. Non... c'è sicuramente un bello spirito di gruppo. Noi queste giornate del decoro le facciamo proprio il sabato mattina, perché vogliamo che più cittadini possibili possano o partecipare o vederci, perché poi magari c'è anche quella pigrizia tipica del romano, che poi alla fine è poco ancora incline a mettersi in gioco per la propria città. Non però, siete riusciti a scalfire magari, ancora questo aspetto, sì, questo è un aspetto millenario. La prossima volta, prima di buttare un pacchetto di sigarette, ci pensa tre volte, se lo tiene in tasca e aspetta di trovare il cestino. Quello è un po' anche quello il significato di queste nostre giornate, in cui ci appropriamo di un quartiere pulendolo da cima a fondo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vogliamo le vostre richieste ai candidati della campagna elettorale. La prima richiesta non può che essere: non ci rompete le scatole con i manifesti elettorali abusivi. Pare che a questo giro di elezioni la cosa vada un po' meno peggio del solito, almeno quello che ci sta raccontando il nostro Daniele Giannini da Roma, ma è quello che vediamo un po' anche a Milano. Daniele Giannini, presidente del municipio 18, animatore di un gruppo di volontari che ogni tanto vanno a ripulire le strade di questo quartiere a Roma. Però 800 24 00 24, se invece nelle vostre città non è così, chiamateci e raccontateci chi vi sta rompendo le scatole coi manifesti elettorali abusivi. Giannini, dicevamo, l'ultima uscita che avete fatto a Roma per andare a ripulire il quartiere, dove siete andati, cosa avete fatto? Sì, siamo andati in uno dei nostri quartieri, perché poi ogni municipio a Roma comprende minimo 150.000 abitanti, quindi stiamo parlando di città nella città. E ecco, un municipio come il mio sarà almeno composto da una decina di quartieri. E siamo andati a ripulire un quartiere che era limitrofo anche a un grande parco, che è il parco della Pineta Sacchetti, e quindi una parte delle persone lavoravano nel verde, quindi in questo parco, per tagliare l'erba, ripulire anche dei manufatti dalle solite tag vandaliche, perché poi noi quando andiamo in un quartiere non è che puliamo solo il marciapiede, noi ripuliamo le scritte, e putiamo le piante, sfalciamo l'erba, insomma è un lavoro a 360 gradi. Il quartiere dove noi operiamo in quel giorno cambia volto completamente. Poi diciamo anche una cosa, voi questa cosa la fate ovviamente anche un po' in supplenza a chi dovrebbe farlo, diciamo la stessa amministrazione pubblica, cioè voi stessi, sì, sì. Però lo fate d'accordo anche con l'azienda che si occupa delle pulizie a Roma, no? Quindi diciamo è una cosa semi istituzionale. Allora, questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Allora, che cosa mi è successo a me nella mia esperienza di presidente? Che il cittadino romano, quando vede una strada sporca, dà sempre la colpa a qualcun altro, non pensando mai che quel pacchetto di sigarette, quella busta che uno non ha messo nel cassonetto, quella bottiglia lasciata là, l'ha lasciata un cittadino maleducato, e che neanche se noi avessimo il servizio di pulizia più bravo del mondo, in nessuna città del mondo uno passa tutti i giorni in tutte le vie. Quindi diciamo che andando a bilanciare al 50% le responsabilità, quindi 50% amministrazione e 50% cittadini, noi abbiamo detto se non si collabora, e quindi quando facciamo i decoro dei non è che sono solo i cittadini che criticano e quindi scendono, no, sono i cittadini insieme all'amministrazione, quindi c'è il municipio, c'è l'AMA, ci sono i vigili, sì. Quindi bisogna rompere questo cortocircuito per cui ogni cosa che non va il cittadino dà la colpa solo all'amministrazione, allora la colpa vanno equamente distribuite, si può dare di più come amministrazione, come vigili, ma anche i cittadini devono dare molto di più, e su Roma diciamo questo è uno sforzo che noi dobbiamo fare, perché è una città che per anni è stata abituata a dare la colpa a qualcun altro per ogni cosa negativa che ci sono, che si verifica nei quartieri. Senta Giannini, lei prima ha detto che sperava che la vostra iniziativa venisse copiata anche da altri, invece siete rimasti un po' un caso isolato. Noi speriamo di no, naturalmente, che non sia così. Poi abbiamo questo fenomeno dei manifesti elettorali abusivi che sembra in calo. Arriverà un giorno in cui sarà controproducente anche per un partito, per esempio, mettere un manifesto elettorale fuori dallo spazio autorizzato, perché ci saranno tante persone che diranno ma guarda che cavolo fanno. Cioè, sta crescendo questa sensibilità o no? Io penso proprio di sì. Chiaramente dobbiamo dire grazie ai tanti animatori dei blog, perché sono i primi poi a fare le foto, a metterle nei vari siti, a farle girare via Facebook, Twitter e quindi diciamo usare i giusti aggettivi verso chi ha così poco rispetto verso la cosa pubblica. Io tipo, stesso, facciamo qualche esempio, da così tanto non ci ascolta nessuno. Esempio di che cosa? Di aggettivi da usare contro chi fa queste cose. Beh, dallo zozzone al insomma, anche non mutatelo, insomma, tutta una serie di cose simpatiche, non si va mai, insomma, non si trascende, però, insomma, sono tutti aggettivi un po' romani che rendono... Ammessi, ammissibili, anzi richiesti in questo caso. Diciamo che io poi, avendo noi le elezioni amministrative a maggio, vedremo pure lì che cosa succederà. Io, fin da oggi, l'ho già, insomma, detto un po' su questi vari siti, farò una mia campagna. Io ho visto c'è una campagna in Bratto Zero che sarà molto simile, sarà Io non vi affliggo, dove quella L è un po' affliggere o affliggere, sì. Mi raccomando, fate anche qualche denuncia, perché questi sono i partiti e quindi insomma c'è nome e cognome dietro, anche se poi fanno finta di non essere loro responsabili. Grazie per ora Daniele Giannini, presidente del Municipio 18 a Roma, che ci ha raccontato la sua esperienza come volontari contro il degrado. Siamo partiti da questa questione dei manifesti elettorali abusivi. 800 24 00 24. Grazie, raccontateci. Grazie a tutti voi. Grazie. Raccontateci la vostra, voi ascoltatori. Mi raccomando, adesso invece un altro tema trascurato dalla campagna elettorale. Capitan futuro di una nuova civiltà. Capitan Questa era la sigla del celebre, insomma celebre, del cartone animato Capitan Futuro. Anche qui abbiamo a che fare con qualcuno che lotta per il futuro, per riappropriarsi del futuro. Parliamo della campagna Riparte il Futuro di Libera. Buongiorno a Francesca Rispoli, direttrice di Libera, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, una campagna per la legalità, come è nel vostro stile, in cui chiedete ai cittadini di firmare per sostenervi e ai candidati alle elezioni di impegnarsi a fare alcune cose. Di che si tratta, Francesca? Si tratta di una campagna attraverso la quale Libera e il gruppo Bele chiedono appunto di mettere al centro dell'attenzione il tema della corruzione, come giustamente veniva detto, un tema molto spesso tenuto ai margini, mentre invece è un tema importante sia da un punto di vista etico che da un punto di vista economico. E quindi noi come associazioni Libera e Gruppo Bele in prima istanza, ma poi con tanti altri, tra cui anche Avviso Pubblico, che è un'associazione di enti locali, vogliamo che il tema della corruzione sia posto al centro per far sì che il nuovo governo e il nuovo Parlamento possano migliorare l'attuale legge sulla corruzione. Ecco, perché come si confà alle campagne moderne, diciamo, no? Non è solo una questione di sensibilizzazione, questo sì, appunto i cittadini possono andare a firmare la loro petizione online sul sito, lo vuoi ricordare, Francesca? Riparteilfuturo.it. Però c'è anche una parte che cerca di coinvolgere proprio i candidati. Chi firma, chi aderisce? Tra l'altro sono circa 600, se ho visto bene, i candidati che hanno già aderito. Tra quelli che hanno già aderito e quelli che stanno completando la procedura siamo già intorno al migliaio, insomma. Ah, ecco, quindi siete cresciuti ancora rispetto all'ultima volta che avevo visto il sito. Chiedete un coinvolgimento diretto. Che cosa si impegna a fare il candidato che firma il vostro impegno contro la corruzione e per la legalità? Siccome sappiamo che in fase elettorale tutti i politici sono facili a fare promesse, perché ovviamente c'è in ballo il consenso, noi chiediamo che l'adesione a Riparte il Futuro sia sostanziata da una serie di documenti, ovvero vogliamo che chi aderisce a Riparte il Futuro faccia della trasparenza il proprio cardine, quindi la dichiarazione dei redditi deve essere caricata sul sito, così come anche il proprio curriculum e tutte le precedenti quindi esperienze che si sono avute. Inoltre vogliamo che vengano evidenziati eventuali conflitti di interesse che la persona può vivere e allo stesso tempo anche eventuali processi subiti o in corso, perché è importante anche dare evidenza dei precedenti penali che ciascuno insomma può avere. Questo per il massimo della trasparenza in questa fase preelettorale. E a coloro che sottoscrivono questi impegni viene consegnato un braccialetto bianco su cui c'è scritto 100 giorni. Di qui in avanti la quinta delle 5 appunto richieste che facciamo ai candidati è quella di cambiare entro 100 giorni, e da qui appunto il nome della prossima fase, la legge sullo scambio sul voto di scambio in Italia, quindi l'articolo 416 ter. Quindi questo è il quinto dei 5 impegni e speriamo appunto che siano tanti i braccialetti bianchi. Fate praticamente come con i piccioni, cioè gli mettete un segno di riconoscimento e poi dopo li andate a cercare, dite voi che vi siete impegnati in campagna elettorale. Adesso non fate furbi perché siete gli stessi, quindi adesso che è iniziata la legislatura facciamo il monitoraggio, sì, e impegnatevi a cambiare. Perché deve cambiare questa legge, Francesca? Questo è soltanto il primo di una costellazione di leggi che vanno cambiate, in particolare la legge sul voto di scambio oggi prevede che possano essere sanzionati soltanto i voti che vengono acquisiti attraverso uno scambio di denaro, e noi sappiamo che molto spesso in realtà in campagna elettorale si acquisiscono voti per esempio promettendo appalti, promettendo forniture, promettendo favori di qualunque tipo, anche pagando delle bollette, delle utenze, perché in un momento di crisi come questo sono davvero tante le forme attraverso le quali si raccoglie il consenso. Quindi non è soltanto attraverso lo scambio di denaro, ma è attraverso quella che viene chiamata altra utilità, quindi dalla ricarica del telefono, purtroppo, perché anche a questo abbiamo assistito, ai veri e propri appalti, bandi pubblici, eccetera. Quindi questa è la prima di una serie ovviamente di leggi, perché per riuscire a combattere la corruzione bisogna lavorare sul conflitto di interessi, bisogna lavorare sull'autoriciclaggio, sì. Sono parecchie ovviamente le normative che vanno profondamente riformate, però intanto questa potrebbe essere il primo segnale concreto che è anche attuabile nell'arco di un breve tempo, quindi appunto i 100 giorni. giorni. Il vostro è ovviamente un appello bipartisan, rivolto a tutti, non ci sono preferenze, le vostre sono associazioni aperte al dialogo naturalmente con gli enti pubblici, con l'amministrazione, con la politica, però non avete un punto di vista in questo senso. E però invece i risultati dell'adesione non sono propriamente bipartisan, questo bisogna dirlo. Vogliamo fare un appello a chi è un po' carente, un po' mancante da questo punto di vista, Francesca? Facciamolo calorosamente questo appello, perché assolutamente la campagna, come giustamente veniva detto, è aperta a tutte le forze, anche perché vogliamo che poi, una volta insediato il nuovo Parlamento, questi braccialetti bianchi siano riconducibili in tutto l'arco parlamentare, che quindi creino un nuovo gruppo, un gruppo che appunto si riconosce nella mission contro la corruzione, a prescindere da quella che è. Senti, visto posizione... che tu non lo dici, perché giustamente non vuoi sottolineare questo aspetto, lo dico io. Sono pochi quelli del PDL, mancano quelli del PDL a questo appello sulla questione dell'impegno contro la corruzione. Ora, invece, sarebbe molto bello che aderissero anche loro, no? È una bella iniziativa. È questo, no? che bisogna incentivare. A questo punto, chi ci sta ascoltando, qualche candidato del PDL, vada sul sito Riparte il Futuro e, se è convinto da quelle che sono le vostre richieste, metta una firma, no? Certo, anche perché la corruzione deve essere una lotta davvero trasversale, perché ci ruba il futuro. E voi da qua volete ripartire, riparte il futuro. Speriamo, e vedremo anche poi gli esiti dopo, no? Perché visto che avete ingaggiato un po' di candidati, vediamo se poi vi daranno retta davvero dopo le elezioni. Grazie intanto Francesca Rispoli di Libera. Grazie a voi, a risentirci. Grazie per quello che fate, per questa iniziativa. La questione della corruzione non va mai trascurata, diventa un argomento da campagna elettorale quando si ricorda il numero di arresti che sono stati fatti, poi però ci sono tutta una serie di altre cose che sfuggono e che invece vanno tenute sotto controllo. Grazie a questa iniziativa, riparteilfuturo.it, invece tutto questo può essere fatto. Se siete convinti di questo, andate come cittadini ad aderire, a firmare per sostenere questo manifesto. Se siete candidati invece, ripeto, soprattutto del PDL, perché non vi fate avanti? Sarebbe tanto bello che questa cosa fosse bipartisan. Non credo che un'associazione come Libera di Don Ciotti possa essere associata ad un partito politico. Non è un'iniziativa politica. Andate tutti e aderite. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, un'ascoltatrice ci scrive al 349-238-6666 che i manifesti elettorali abusivi nel municipio 18, proprio, lei dice che abita lì, a Roma ci sono, e come. Non è che abbiamo detto che non ci sono, abbiamo detto che ci sono forse di meno, lì come altrove, perché pare che sia una campagna elettorale un po' a risparmio. Non credo perché siano cambiate le cattive abitudini dei partiti di pagare e subappaltare questa cosa qua a gruppi più o meno contigui con la malaffare, per andare a tappezzare la città ovunque di manifesti elettorali. Un'abitudine che forse, per un motivo o per l'altro, sta un po' cambiando. 800 24 00 24, ci chiama Manuele da Varese. Buongiorno. Buongiorno, sì, io volevo portare la mia testimonianza qui dalla terra della Lega, sì. Dove appunto non c'è solo il problema legato ai manifesti di affissione abusiva, ma soprattutto di adesivi che attaccano su ogni tipo di superficie, pali, semafori, cartelli stradali, e di continuo, non solo sotto le elezioni. E io appunto, legato anche al fatto del movimento molto cresciuto negli ultimi anni a Roma, dei volontari antidegrado, io faccio lo stesso qui nella mia città, e costantemente mi adopero con i mezzi che trovo, taglierino soprattutto, col taglierino, a rimuovere di tutto e di più di quello che attaccano abusivamente, imbrattando. Chi siete? Un gruppo di amici, un'associazione o qualcosa? Io sono da solo, però da solo. Sono sempre in contatto con i ragazzi di Roma, adesso via internet è molto tutto, cioè, più facile. Cioè trova sostegno morale con questi di Roma che sono più organizzati di voi. Lei da solo... Io sono da solo, sì. Sì. Non è che rischia anche qualcosa andando a togliere, magari passa quello che ha messo il manifesto. Sì, mi è successo infatti, minacce o botte, diciamo, purtroppo ci si espone così, anche se io sono la parte giusta della legge, lo però so. Non vengono... Facciamo un appello allora a Varese, qualcuno che voglia solidarizzare con Manuele e con la sua attività antidegrado, che credo che non faccia torto a nessuno. Una cosa volevo chiedere a Giannini, mi sono dimenticato, se tolgono tutte le scritte, anche quelle belle, anche quelle artistiche, che a volte si trovano, dei bei murales, e quelli forse si potrebbero anche lasciare. Manuele, lei che ne pensa? Diciamo che se sono su muri che non hanno deturpato nessun bene storico, non sono muri legati in un centro storico dove c'è un valore architettonico importante, in zone periferiche, magari sotto un cavalcavia, un muro di cemento, sì. Ci può stare, se è un murales che è un tema. Che non siano gli scarabocchi messi a casaccio. Benissimo. Per marcare. Manuele, però, secondo me, per allargare la sua iniziativa, forse deve aprire tipo una pagina Facebook, qualcosa. Ce l'ho, io ho diverse pagine Facebook, una legata anche alla segnaletica stradale e alla sicurezza stradale, perché appunto il marchio dell'imbrattamento. Ci dica quella contro l'imbrattamento, così qualcuno la sente, può aderire e la prossima volta non va da solo a fare questo lavoro. Io avevo il blog, adesso diciamo in pausa di riflessione, sì. Degrado di Varese.blogspot. Va bene. Che ho tenuto aperto per 3 anni. E poi la pagina Facebook legata alla segnaletica stradale e alla sicurezza relativa. E come si chiama? Aboliamo i panettoni, sicurezza stradale, segnaletica estero, diciamo. Magari ma lei è uno specialista di questa roba qua, cioè c'ha blog, pagine Facebook, fa di tutto. Perché io sono attivista anche nella manutenzione stradale, purtroppo il malcostume in Italia è diffuso anche nella manomissione della segnaletica, viene imbrattata anche quella, che è un reato penale, oltre che una violazione del codice, dell'articolo 23 del codice stradale. E i partiti, non solo, i partiti imbrattano anche la segnaletica stradale, è una cosa vergognosa che all'estero non si verifica. Mi raccomando, grazie, grazie Emanuele, non lasciate solo Emanuele da Varese, avete capito, vi ha dato tutti i contatti per poi li rimetteremo anche sulla pagina Facebook di Si Può Fare per dargli una mano, perché fa un sacco di cose, però poverino è da solo a Varese a lottare contro il degrado. Patrizia da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono rimasta molto soddisfatta della notizia che lei ha dato sulle case popolari di Bologna. Sì, abbiamo detto, lo ricordo per chi non l'avesse sentito, abbiamo detto che sono state avviate le procedure di sfratto contro alcune famiglie perché hanno fatto dei controlli e ce n'erano molte che non avevano più i requisiti economici per starci dentro. Allora, questo è uno dei motivi per i quali io sono sempre più convinta, lavorando in questo campo, che le regioni andrebbero abolite. Perché legiferano ognuna per conto suo, perché è ormai la casa è passata alle regioni. Noi a Roma, su 70.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di case popolari, 35.000 sono state occupate e sanate dalla politica. Cioè, questa è delinquenza. Cioè, lei ha delle cifre esatte da questo punto di vista? Assolutamente sì. No, sui 70.000 e 35.000 no, ma forse sono di più che non di meno, perché nessuno te li dà. Ma ci sono state 7 sanatorie fatte nell'arco di 18 anni. Beh, certo, quando c'è una sanatoria si sa che... Quando fai 7 sanatorie consecutive, uno ogni 3-4 anni, ma come si può pensare di governare il Lazio? Come si può pensare? Vabbè, si capisce che quando c'è una sanatoria dietro magari anche motivi validi, però poi si può nascondere di tutto, no, perché vengono abbattuti i criteri. Io non quindi, posso sì. dirlo perché mi becco una querela da dei gruppi potentissimi, economicamente potentissimi. Beh, però se ha qualche notizia, una denuncetta si può fare, perché lì non c'è querela. Cioè, se lei dice una cosa e poi si rivela infondata, però Senta, se fa una denuncia... Io dovrei sì. asserire che il gruppo Tal dei Tali, interessato a costruire case che non servono, finanzia qualche campagna elettorale. Così sto raccontando una favola. No, ma la racconta anche Report, ormai si è capito che l'edilizia è una grossa merce di scambio. Patrizia, lo straccio di prova non puoi fare. Certo. Allora, in attesa di una denuncia, intanto grazie per questa telefonata, Patrizia da Roma. 800 24 00 24, tra poco. Abbiamo parlato di Roma, adesso andiamo a Milano. Una mini rivoluzione si annuncia in una strada del centro di Milano, in corso Buenos Aires, che sarà pedonalizzata, chiusa al traffico per una domenica al mese in via sperimentale. Speriamo, io dico, che poi questa cosa diventi stabile e che diventi tutte le domeniche del mese, magari sempre, come chiedono molti cittadini che non ne possono più di essere vittime del traffico. E non stiamo scherzando, perché adesso c'è anche un manifesto che sta girando le città amiche dei pedoni hanno aderito 40 città, ogni anno muoiono migliaia di persone investite dalle auto in città, non è possibile fare finta di nulla. Anche questa è una cosa che naturalmente non tocca direttamente la campagna elettorale, ma perché non la tocca direttamente? Perché si fa finta di parlare di problemi più grossi, ma cosa c'è di più grosso della perdita di vite umane semplicemente per una cosa stupida come il traffico? Salutiamo Emanuele Lazzarini, consigliere comunale di Milano in Commissione Mobilità, che ci racconta buongiorno. Questo progetto. Buongiorno. Buongiorno. Questo progetto appunto di pedonalizzazione di questa importante via dello shopping. Tra l'altro ci sono sempre le resistenze dei commercianti perché hanno paura di perdere commercio. Stavolta forse la crisi li ha messi, come dire, sull'avviso e magari potrebbe diventare un modo per rilanciare invece i commerci, pedonalizzare, no? Sì, la crisi o la lungimiranza, anche perché ricordiamo che c'è sempre qualcuno che ci vede più lungo degli altri e riesce ad anticipare i cambiamenti. Quindi questa volta i commercianti d'accordo sono più della metà ed è forse anche la, come dire, la forza di queste idee, al fatto che venga dal basso. Il comune ha dato una visione, che è una visione di cambiamento profondo degli stili di vita e anche insomma in modo che la città in tutte le sue forme possa orientarsi al miglioramento della qualità della vita, che forse è la cosa più importante di tutte, e la città sta rispondendo, e questo è uno di quei casi più belli. Ecco credo. Possiamo ricordare per chi non è di Milano, cioè la maggior parte degli ascoltatori, quali sono questi temi, perché ci sono in effetti sul tavolo. A Milano si è votato un referendum per estendere o confermare quantomeno il ticket di accesso per le auto in centro storico. Certo. E cos'altro, Emanuele? Ma diciamo che sono stati votati 5 referendum su alcune tematiche ambientali. Quello che più, come dire, interessa poi questi temi legati alla mobilità è proprio quello dell'attivazione di un ticket d'ingresso alla zona del centro, che è stato insomma ampiamente dibattuto. Si parla chiaramente di area C, e però sta portando dei frutti davvero importanti. Parliamo di il 30% degli ingressi in meno all'interno del centro storico, il 7% in meno dei veicoli in tutto il resto della città, numeri insomma che danno fiducia. E poi c'è da dire che insomma si stanno raccogliendo delle risorse grazie a questo ticket, che non sono un'infinità, perché si parla circa di una ventina di milioni ogni anno, però insomma in tempo di difficoltà economiche dei bilanci degli enti locali sono sicuramente una cifra importante, risorse che interamente fino all'ultimo centesimo possono essere destinate alla mobilità dolce, alla mobilità sostenibile, quindi all'aumento delle corse di auto, autobus, tram, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto alle infrastrutture per la mobilità dolce, sì. Quindi le piste ciclabili, le pedonalizzazioni, eccetera, eccetera. Devo dire, cose che si cominciano a vedere anche a livello di lavori pubblici in giro. Assolutamente, certo. Poi, insomma, chi va in bicicletta, cioè, giustamente si lamenta spesso perché le piste ciclabili non sono come dovrebbero essere, e questo anche va detto, però... Forse anche il fatto che si cominciano a farle è già una buona notizia. Un'altra notizia, dico io, ci sono gli sconti di nuovo per i disoccupati e i precari sui mezzi dell'ATM. E queste cose però mi colpisce, non c'è mai pubblicità a queste iniziative. E sembra che ci sia molta timidezza. Finisce che poi la gente non sa nemmeno che ha diritto a una cosa piuttosto che all'altra. C'è un po' di carenza anche da parte vostra in questo. Cioè, ditele con forza queste cose, no? No, allora c'è sicuramente un tema di comunicazione. Bisogna ricordare che purtroppo c'è un vincolo dettato dal famigerato patto di stabilità, che sono, come dire, le regole di bilancio che gli enti locali devono rispettare, per cui non si può spendere più del 4% del bilancio di un ente locale in comunicazione. Quindi noi chiaramente abbiamo dei forti limiti a dire alla città tutte le cose che si stanno facendo. Questa è un po' una follia, lo dico io, perché per esempio una cosa come questa, gli sconti per i disoccupati, se io sono disoccupato e nessuno me lo viene a dire, rimangono lì 2 milioni di euro di finanziamenti inutilizzati, e io continuo a pagare l'abbonamento sul mezzo pubblico quando potrei non pagarlo, solo perché il comune non può fare comunicazione. Vabbè, è una delle tante follie. Per gli anziani. Per gli anziani over 65 il problema è forse anche peggiore, perché è chiaro che oggi la comunicazione, anche quella istituzionale, viene veicolata attraverso i social network. C'è la pagina di Facebook ufficiale del Comune di Milano, che è un canale di comunicazione straordinario in questo senso, però per le fasce che meno hanno accesso alla comunicazione su internet è chiaro che questo è ancora più difficoltoso. E tornando a questo progetto di chiusura della strada del commercio alle auto, anche qua bisogna informare bene la gente, altrimenti, siccome sarà una domenica al mese, quale domenica sarà? Io rischio di andare lì in macchina, di trovar chiuso, oppure tutto contento, baldanzoso, vado in bicicletta e trovo le macchine che mi potano. No, certo, questo sarà comunicato per tempo, anzi ricordiamo già che a gennaio, quindi un mese fa circa, sono state comunicate le 8 date delle domeniche a spasso del 2013. Milano dall'anno scorso ha deciso di sperimentare questo modello di domenica a spasso, quindi domeniche in cui la città si risveglia e con l'attività di tante associazioni del territorio, insomma, le vie e le piazze si riempiono di bambini e di festa. Queste date sono già chiare, sono sul sito del Comune di Milano, se volete ve le dico anche se ho tempo, sì. Però insomma ci sono. Saranno il 17 marzo, il 7 aprile, il 12 maggio, il 9 giugno, il 14 luglio, l'8 settembre, 13 ottobre e 17 novembre. E va bene, invece per quanto riguarda la strada chiusa al traffico? Per quanto riguarda la strada chiusa al traffico c'è una proposta che va oltre le 8 domenica spasso, nel senso che se ne vorrebbe fare qualcuna di più. Si sta valutando con gli assessorati di competenza per non creare... Mi raccomando, creare troppo... sì, perché ripeto, qua la gente ha votato al referendum, vi hanno dato il via libera su questo, non bisogna essere timidi. No, ma la timidezza non è proprio, insomma, un problema. Si sta chiaramente valutando anche il tema della chiarezza verso i cittadini, perché come diceva lei è chiaro che deve essere tutto comunicato perfettamente in modo che la gente sappia. Comunque l'idea è quella di andare oltre le 8 domeniche a spasso e insomma ravvivare quel tratto di città, insomma, per più momenti durante l'anno, ecco. E va bene, questi dettagli sì, sono da definire. Staremo a vedere, grazie. Intanto è un ragazzo, tra l'altro, quanti anni ha Emanuele Lazzarini? 25. Insomma, diciamola che un giovane consigliere comunale ci mette anche la sua. Leva in bici, Emanuele. Tu diciamoci il tu, perché tanto sei un ragazzo. Vado in bici spesso, rigorosamente con le bici pubbliche del comune. Quindi. Ma con quelle del bike sharing o con quelle? Con quelle del bike sharing. Con quelle del bike sharing, sì. Altro servizio che sta crescendo in città. Quanto costa il bike sharing, l'abbonamento? Costa 35 euro l'anno. C'è uno spaga 35 euro, poi se la usa, se ho capito bene, meno di mezz'ora esatto. Ogni volta, poi non paga altro. Esatto, è convenientissimo. Insomma, consigliatissimo. Per lo spostamento casa-lavoro che si fa in meno di mezz'ora, se uno ha la fortuna di avere due sedi del bike sharing vicine, praticamente con 35 euro l'anno ti togli il problema della bicicletta, che costa molto di più e a Milano, tra l'altro, te la fregano anche spesso. Purtroppo sì. E vabbè, questo sarebbe un altro capitolo. Grazie per essere stato con noi, consigliere comunale in Commissione Mobilità a Milano, Emanuele Lazzarini, che ci ha parlato di questo progetto, una mini rivoluzione, perché a Milano di strade chiuse al traffico non ce ne sono praticamente, ce n'è una via Dante da molti anni, ma è tanto che se ne parla e non si avevano novità su questo fronte da molti anni. Una sperimentazione con tutti i limiti del caso, ma insomma speriamo che vada avanti con forza. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, non so se avremo ancora il tempo di sentire qualche ascoltatore in diretta. Oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci se in effetti è vero che i manifesti elettorali abusivi sono una cattiva abitudine che sta un po' diminuendo, per fortuna. Potrebbe essere questa la buona notizia di questa campagna elettorale. Sì, abbiamo Carlo dalla provincia di Firenze. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Che ci racconta? No, io seguivo per radio il vostro argomento relativo alle affissioni elettorali, sì, abusive, e sento tante lamentele giuste, perché di fatto in campagna elettorale si assiste allo scempio della città. Devo dire però che nel passato, tutte le volte che c'è stata una campagna elettorale, i partiti hanno sempre provveduto in sede poi parlamentare a formulare leggi che condonavano tutti questi abusi. Ha ragione, quindi, è vero. Ecco, quindi il problema è direttamente dei partiti che all'interno delle Camere poi condonano. Quindi o si risolve il problema per cui i partiti non danno avanti più iniziative di questo genere, o se no qualsiasi iniziativa è destinata a fallire. È chiaro, ma queste naturalmente le iniziative di cui parliamo noi sono iniziative che non vengono dai partiti, ma vengono dai cittadini che fanno quello che possono. Per quanto riguarda i partiti, ci sarebbe sempre la possibilità che qualcuno seguisse le regole fregandosene del fatto che poi c'è un condono dopo, cioè semplicemente perché rispettare le regole è giusto. Comunque è chiaro quello che lei dice, no, così non funziona, finché poi ci saranno dopo i condoni. Carlo da Firenze, grazie, buona giornata, grazie per la sua telefonata. Adesso invece un caso clamoroso, forse un pochino meno, di Made in Italy. Perché quello che sentite è l'inno nazionale della squadra nazionale di calcio di Pompei e ne parliamo con uno dei suoi autori, il gruppo I Quad Sun, un gruppo pugliese, si chiama Yuri Patriarca. Buongiorno. Buongiorno. La notizia ci ha colpito perché si tratta di una squadra di calcio minuscola in un'isola, credo, dell'oceano, Pompei. Sì, sì, della Micronesia. Dell'Oceania, non dell'oceano, dell'Oceania. E la cosa clamorosa è che sono venuti a cercare voi per realizzare l'inno. Ora sappiamo che la Puglia ha una tradizione musicale, figuriamoci, clamorosa, però che c'entrate voi con Pompei? È una questione, è una storia un po' lunga, diciamo, per caso, ecco, diciamo una questione, è stato per caso, abbiamo avuto questa occasione, l'abbiamo colta al volo perché ci sembrava una storia molto bella e prenderne parte ci rendeva, insomma, ci... Beh, insomma, non capita a tutti di fare l'inno di una, esatto, di una squadra di calcio, benché i giornali scrivano che è la squadra di calcio peggiore al mondo. Sì, storicamente è una squadra che non ha mai vinto in tutta la sua storia, e proprio per questo... Neanche una partita, mai. Di chi ha fatto questo intervento, diciamo, di risollevamento della squadra, ecco, perché storicamente non aveva mai vinto, e si sono stati messi a disposizione staff tecnici, professionisti, sì, provenienti dall'Inghilterra, e in più avevano bisogno di una canzone come loro inno ufficiale per poter partecipare eventualmente ed entrare nel ranking. Eventualmente, qualora dovessero... Hanno contattato noi, sì, perché comunque noi siamo un gruppo di producer e lavoriamo in campo anche internazionale, e per noi è stato bellissimo, insomma, riuscire a partecipare Ma voi nella vita che cosa fate, Yuri? Cioè siete proprio musicisti di professione? Sì, sì, sì, noi siamo musicisti, siamo produttori, in più siamo in uscita con il nostro primo album in Italia con Propaganda Records di Roma. Come si chiama l'album? Diciamolo. Come si chiama l'album? Facciamo un po' di pubblicità. Come si chiama l'album? L'album non ha ancora un nome. Noi invece... E siamo sicuramente in uscita nel 2013 con Yuri, Propaganda Records. Abbiamo capito, Yuri, questo lavoro ve l'hanno pagato questi di Pompei? Ve l'hanno pagato bene? Una curiosità, se ce la vuoi dire. Guarda, non ci hanno pagato tantissimo, però sicuramente... Un bel ritorno d'immagine. Ci aiuta, ci dà una mano, ecco, da un certo punto di vista, diciamo, di pubblicità sicuramente, ecco, certo, perché infatti ha riscosso interesse da parte dei media. D'altra parte una delle regole del marketing è farsi fare pubblicità gratuitamente, quello che per esempio siete riusciti anche oggi con noi, ma anche è stata oggi una nostra iniziativa. Infatti è stato molto carino perché è inaspettato, sì, è arrivato questo interesse da parte anche delle, insomma... Yuri, un'ultima cosa ti voglio chiedere. Anche, sì, Yuri. Yuri, mi senti? Forse la musica alta dell'inno ti ha tappato le orecchie, non riesco a farmi sentire da te. Ieri ha vinto tra i giovani un pugliese, Antonio Maggio, non c'entra un tubo con la musica che fate voi, però... Sì, noi abbiamo seguito Sanremo, lo stiamo seguendo e siamo molto contenti per Maggio che abbia vinto Sanremo Giovani, anche per Rubino che ha vinto il premio... Mia Martini, che è un premio importante. Insomma, Puglia superstar nella musica, via, alla grande. Bravi, bravi, continuate così. Quad Sun, album in uscita, ai ideatori e realizzatori dell'inno della squadra di calcio del Pompei, la squadra di calcio peggiore al mondo, ma è un record anche questo. Ci fermiamo qua per oggi. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione oggi e Franco Piantanita in redazione durante la settimana, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro La Corte in regia. Andate sul sito, votate, partecipate al concorsone di Si Può Fare. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno.